soy honesto. Abbiamo lavorato sotto il sole però. Adesso abbiamo sete, dacci il vino padrone. Rivoluzione. Quello che sta sotto va sopra, chi sta sopra scompare. Rivoluzione. Quello che sta sotto va sopra, chi sta sopra scompare. Thank you.